soy yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Stamattina sono solo, non vedo nemmeno Fabrizio Intonti, è andato a prendere il caffè, ma non importa, tanto sono esperto e posso andare avanti da solo. L'ho detto naturalmente per una boutade, perché questa mattina il tema su cui vorrei convocarvi è il seguente. Vi siete resi conto, guardando la televisione, leggendo i giornali, osservando il mondo riferito dai media, che in realtà esistono esperti per ogni branca dello scibile umano, ma esistono esperti anche in quelle particolarità in cui nessuno avrebbe mai immaginato che occorresse particolare esperienza. L'esperto è naturalmente un mestiere molto difficile. Ancora non ho ben capito dove si studi per diventare esperti, ma esperti nella moderna accezione, nella mediatica accezione contemporanea, non nel senso classicamente attribuito a questo termine, colui che ha una grande esperienza in una branca della scienza, dell'applicazione, del pensiero, dell'espressione artistica, per cui avendo coltivato per molti anni personalmente, essendosi fatta un'esperienza, avendo osservato, studiato, analizzato, collazionato tutto ciò, o perlomeno la maggior parte delle fonti riguardo a quel tema, avendolo provato di persona, avendo sperimentato, avendo inventato, fantasiosamente corroborato già la disciplina esistente su quella materia con un suo apporto personale originale, può essere considerato esperto in una materia. Beh, oggi per essere esperti occorre veramente aver fatto pochissimo. Ma ve lo dico con il cuore in mano, facendo una sfumata lunga rispetto alla trasmissione sulla menzogna di ieri, quindi mentendo, che anch'io molte volte mi sorprendo quando mi chiamano in televisione dicendo: verrebbe a parlare di questo argomento in quanto esperto? Io dico: ma esperto di che? Normalmente a me mi attribuiscono una sorta di vaga, non classificata, per nulla certificata e nemmeno realmente esistente esperienza nel mondo dei media. Quindi quando mi chiamano in televisione scrivono nel sottopancia mass mediologo. A me vengono naturalmente degli istinti immediati a vomitare, perché se penso ai mass mediologi che conosco, certificati come tali, autoproclamati come tali, mi vengono degli esempi di una pochezza tale, di una superficialità tale. Poi come si fa a essere esperti nel mondo dei media, con un mondo fluttuante, mutevole, cangiante? Beh, comunque anch'io sono esperto in qualcosa, quindi spesso mi chiamano, ultimamente mi chiamano a parlare di signorine siliconate, come se quella fosse la mia esperienza. Mi fa piacere, perché anche fa parte delle tante attività professionali che uno può svolgere. Ogni tanto mi chiamano: lei in quanto esperto? Ah, perché con Moriggio ho fatto un libro sulle estensioni tecnologiche dell'umanità, forse per quello, non lo so, probabilmente, non lo so. Beh, questa mattina vi chiamerei a raccontare in cosa siete veramente esperti. Immaginate che il grande mondo affamato di esperti che deve ogni giorno confezionare della subrealtà ha bisogno di voi. Quindi questa mattina dobbiamo dare un servizio ai procacciatori di ospiti, agli estensori di articoli, di inchieste, di specchio della realtà, perché probabilmente non immagino che esistano tante esperienze così legate ad attività, a pensieri, a modi d'essere, che nessuno nemmeno immagina. Quindi all'800240024 chiamerà l'ascoltatore modello questa mattina dicendo in cosa lui è realmente esperto. Dottor Price, a lei che è un esperto di relazioni di coppia, io volevo chiedere come si riconosce una coppia che ha una qualche possibilità di stare insieme, di durare nel tempo? Nell'incontro fra due persone che hanno la possibilità di formare una coppia ci Dottor sono... Dottor Price, lei che è un esperto in linguaggi telematici e realtà virtuali, le informazioni che troviamo su internet devono essere considerate generalmente attendibili? Lei che è un esperto in modalità e forme ossessive dell'amore, lei che è un esperto di fenomeni paranormali, lei che è un esperto di psicodinamiche biocognitive. Questo era il dottor Freis da Tutti pazzi per amore, il poliesperto. Ma guardate che la fiction molte volte, parodiando la realtà, non fa altro che fare della vera e propria cronaca. Il mondo è pieno di poliesperti, di persone che vanno in televisione in quanto esperti in qualcosa, in quanto ormai attribuite dallo stesso sistema che cerca esperti di un'esperienza che probabilmente non hanno. Ma dopo aver frequentato un salotto televisivo, aver risposto a domande di giornalisti per circa un paio di mesi, si diventa esperti a tutti gli effetti. E quindi nel pantheon delle eccellenze naturalmente sono gli esperti in alcune branche del trattamento dell'umanità, perché la televisione l'ha proclamati come tali. Ah, ecco il primo esperto. Antonio, buongiorno. Buongiorno. In cosa è esperto? Ma io sono esperto in bugie, sono... Dovrò chiamare ieri, chiama oggi, è un giorno in ritardo. Lo so, sono un giorno in ritardo, però... Però facciamo finta che, per abituare gli ascoltatori a confessare le proprie esperienze, a proclamare, perché farò di voi persone ricche oggi, perché se vi ascolterà qualche produttore televisivo, qualche caccia ospite della televisione, qualche giornalista comincerà a notarsi, e lei magari oggi si potrebbe trovare nel salotto di Monica Setta a parlare di bugie, pensi un po'. Ma guardi, io il mio Cencelli della bugia è il giovane Holden, libro famosissimo, no? Sì. Di conseguenza la cosa che mi incuriosisce di più, oltre alla mia specializzazione, è un mestiere di esperto che è al di sopra di tutti gli esperti, quello che seleziona gli esperti. Cioè, lei è un cacciatore di teste di esperti? Io sono il cacciatore di teste di esperti. Ma per cosa li classifica? Dove li manda poi una volta che l'ha trovati? Ma no, li mando nei posti più variegati, nelle aziende anche, perché no? Ah, ecco, le sta rivelando qual è il suo vero mestiere. Lei cerca, diciamo, delle eccellenze su richiesta di aziende. Esatto, esattamente. Ecco, nella gamma delle possibili esperienze, quali sono quelle che vengono più richieste? Soprattutto come fa a certificarle realmente? Perché, sa, un'azienda poi quando prende una risorsa umana ne risponde lei della sua reale capacità, immagino. Bah, non sempre, però tenga conto che le aziende è anche una furbata al suo mestiere. Esatto, le aziende cercano degli esperti, delle professionalità, e la migliore professionalità è quella di saper convincere la controparte di essere esperto, anche perché l'esperienza sì, si dimostra sul campo, ma poi in alcune attività, per esempio lei parlava della televisione, lei che viene chiamato come massimologo. Sì, cioè divertentissimo. Voglio dire, è un istante. Non ho mai studiato nulla per diventarlo, confesso, non so nemmeno dove si studi. Qualcuno però gliel'attribuisce, vuol dire che lei la sa raccontare, no? Oh, perfetto, lei ci dice una grande verità. Viviamo in un frammento fantastico della avventura umana in cui si può anche non essere esperti di nulla. La vera esperienza è la capacità di vendere fuffa, che mi pare sia il suo mestiere. Certo, glielo dicevo prima, io vendo bugie. Di conseguenza, il concetto è questo, che la vita di tutti i giorni è l'esperienza migliore, e quindi chi riesce ad avere un'ottima dialettica e soprattutto a fare tesoro di tutte le esperienze della vita è poi il mass mediologo, l'esperto per eccellenza, perché è esperto di tutto. Quindi lei potrebbe anche vendermi, se io entrassi nel carnet dei suoi personaggi o dei suoi clienti, potrebbe anche vendermi bene un'azienda? Probabilmente sì, però io non ritengo che lei abbia bisogno di me per vendersi, perché è già un ottimo venditore e di conseguenza ha già una reputazione nel campo della mass mediologia. Però guardi, io sto cercando disperatamente un agente, perché non mi so molto amministrare, dico la sincera verità. Beh, l'agente è una cosa diversa, l'agente è quasi un portavoce, no? Vediamo anche nel calcio. No, uno semplicemente che vada a negoziare per me, questo mi serve. Ah, ecco, a lei manca la parte di negoziazione. Sì, non sono capace. La parte di negoziazione perché evidentemente ha un pudore interno alla fine. Sì. Cioè, nel senso che le persone a cui manca la parte di negoziazione sono quelle persone che nel loro profondo non si ritengono degli esperti. Beh, e di conseguenza hanno questo pudore. Sarebbe anche cialtrone se mi ritenessi esperto, scusi, io almeno ho un po' di amor proprio. So esattamente che vendo fuffa, non ho dubbio. Però voglio dire, ci però sono un fuffologo mi servirebbe. Ci sono anche gli esperti che, pur vendendo fuffa, ci credono, e di conseguenza sono quelli che con una faccia di bronzo, ma anche con una convinzione interna, proprio emotiva, ritengono di essere i massimi esperti e quindi non hanno alcun pudore a chiedere qualunque cifra, a supporto della loro grande. Io mi commuovo ancora al chiar di luna, posso vendere la fuffa. Comunque grazie Antonio, mi ha dato veramente delle illuminazioni vitali. E 800240024, andiamo nel cercare il filo dell'esperienza fallace, fittizia e fugace che oggi cerca il mondo alla disperata ricerca di certezze. Luciano, in cosa sei esperto? Buongiorno. Eccomi. Allora, sono esperto per lavoro in telecomunicazioni, tecniche della comunicazione, telecomunicazioni fisicamente parlando, quindi rete. Cioè fuffa o realmente lei magari è capace di creare una rete fisica? No, sono capace di vendere fuffa, per carità, perché io faccio la parte tutta commerciale, quindi... Magari nel suo talento di esperto in comunicazione di reti potrebbe abbassare un po' la radio, così non c'è questo fastidioso effetto di ritorno. Chiedo scusa. Grazie. È che non la sento in ritorno sul cellulare? No, deve sentirmi, mi sente. Quindi per il suo tecnico non sente il ritorno... Non sente me in questo momento? Telefono. Non mi sente? Non riesco a parlare con lei, se no. Ah, perché? È un problema della nostra rete. Allora, moduli... Cioè, io riesco a parlare, ma non la sento al telefono. Ah, non mi sta sentendo, vero? Lo so. Allora sì, con la radio. Però. Vabbè, allora tenga un po' di radio, accontentiamoci. Questo dà il senso della fallacità di ogni esperienza. Dà il senso dell'esperto di telecomunicazioni, no? Perfetto. Allora, lei a questo punto somiglia un po' al... nostro ascoltatore di poco fa, quindi abbiamo capito che... No, assolutamente, guardi, il mio argomento non voleva essere il mio ramo di lavoro, ma voleva essere l'esperto di ballo che c'è in me, o per meglio, la passione che ho coltivato per quasi 30 anni. Ah, è un ballerino. E quello è l'esperto, perché mi dà poi sì una comunicazione ma diretta, ma con l'altro sesso, che è la cosa che ritengo più importante dopo il denaro, magari... Che ma esperto in ballo o in pomiciate, per capire, in provolonaggio? Ma diciamo un po', 50-50, ma il ballo di fondo è quello che mi piace. Quindi lei potrebbe rispondere a qualsiasi domanda sul ballo? Beh, qualsiasi, proprio no, perché ho anch'io quel pudore che lei accennava prima, perché non sono un tuttologo. Metta caso, io fossi uno dei cialtroni che fanno talk show in televisione, direi. Signor Luciano, lei in quanto esperto di ballo, come si spiega il rinascere della passione nel tango nelle nostre città? Io lo spiego molto facilmente, è un ritorno ciclico del ballo di coppia che permette un contatto fisico e diretto con la propria partner, mentre nel ballo cosiddetto moderno o di discoteca o hip hop o qualsiasi altro tipo di ballo che è un ritorno del ballo individuale, c'è una ciclicità, quindi tra il ballo individuale e il ballo di coppia. Quindi, signor Luciano, lei in quanto esperto di ballo collocherebbe nella... nuova tendenza e necessità di strusciamento fisico, la vera radice della passione per il ballo che oggi vediamo nelle nostre piazze. Sì, è vero, perché nel momento in cui c'è un momento di crisi economica e quindi di difficoltà di relazionare con mezzi tecnologici che sono comunque costosi o comunque di spostamento che sono costosi, è la maniera più semplice per trovare una relazione umana che non è Facebook. La sana e vecchia, antica, strusciata che tanto ci dette soddisfazione. Grazie al nostro esperto, signor Luciano. Introduciamo adesso la nostra esperta, signora Francesca. Buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. In cosa sei esperta? Ritengo di essere esperta in una cosa assolutamente inutile. La risoluzione dei rebus. Ah, che bello. Ma come ha fatto a acquisire questo talento? Esperienza, cioè li faccio da quando ho 12 anni, ne ho 40 e li risolvo tutti. Sono un po' snob però, solo quelli della settimana enigmistica. Signora Francesca, in quanto esperta di rebus, come colloca la nuova passione dei giovani per il rebus alla luce della sua profonda esperienza più che trentennale in rebus? Ma dunque, non trovo nessun interesse dalla parte delle nuove generazioni verso i rebus. Credo che per il rebus ci voglia una sorta di pensiero laterale che manca molto alle nuove generazioni. E come ha sviluppato, signora Francesca, in quanto esperta di rebus, il suo pensiero laterale? Il mio pensiero laterale è sicuramente dovuto agli studi classici, secondo me, e al dover tradurre latino e greco. Ringraziamo la signora Francesca, esperta in rebus, che ci ha spiegato questa mattina che la radice profonda dello studio classico dà quella apertura laterale che alcune persone hanno e grazie a questa riescono a risolvere facilmente tutti i rebus. Professore Mazzarella, se le dico 20 agosto 2009, che cosa mi dice? Il 20 agosto 2009 è stato il giorno più caldo di questo mese di agosto. Abbiamo raggiunto ben 36,2 gradi centigradi ed un disagio climatico classificato dai climatologi come estremo. Insomma, tanto caldo soprattutto per l'umidità, vero? Come si devono comportare proprio le famiglie, che immagino siano quelle dove il panico arriva prima, davanti a questo virus influenzale di cui si sta parlando moltissimo? Allora, c'è il pericolo, c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha già dato che segue i cosiddetti 6 livelli di guardia, siamo già arrivati al 6° livello, che è quello proprio della pandemia, perché la pandemia c'è. Certo, saranno in grande crisi gli esperti in pandemia, perché ci stiamo affacciando, ahimè, mestamente, e lo dico mestamente perché questa primavera mi sembra quasi non averla vissuta, all'estate, e ancora non si parla di nuovi virus, nuove pandemie. Un anno fa eravamo tutti ben infilati nella febbre suina, di cui non si ha più nessun tipo di notizia, come non si ha più tipo di notizia della nube di fumo tossica, di tante altre cose. Quindi in questo momento sono in leggero calo gli esperti in influenza, in pandemie, in epidemie virali. Leggo su Facebook qualche esperienza che mi viene sottoposta. Serena e dilettante per natura, quindi è esperta in dilettantismo, Gabriele nel vendersi bene, Andrea nell'immaginare, Barbara nel riempire fogli bianchi e in cavalli, poi Teresa nel mangiare, questa può essere un'esperienza, non vedo grandi talenti però ancora, nell'accelerare le fini, Cettina dice sono esperta nell'accelerare le fini, quindi applica l'eutanasia. Non voglio sapere come. E stiamo andando avanti nel rifare gli stessi errori che un minuto prima ho dettagliatamente descritto con acume, quindi un'esperta nell'accanimento, nello sbagliare. Claudia, entusiasmarmi per qualcosa disentusiasmarmene pochi minuti dopo, quindi nell'undivago pensiero. Esperta in telefilm, poi andiamo ancora avanti. Creo crampi magnetici con la sola imposizione delle lame. Ah, questa è bellissima, crea crampi magnetici con sola esposizione delle lame. Vediamo Christian in cosa è esperto. Buongiorno, io sono un creator di eventi a forte impatto esperienziale, lavoro in un'agenzia a Milano e praticamente la mia expertise è la realizzazione di eventi di comunicazione. Cioè feste di compleanno praticamente? No, eventi di comunicazione per le aziende, per il pubblico. Faccio un esempio. Che utilizzano il below the line, un esempio è questo, l'evento è un vero e proprio media ormai nella comunicazione, sì. Facciamo per esempio fare esperienza di un brand o dei valori di un prodotto attraverso un'esperienza diretta, visiva, ambient media, attraverso il flash mob. Cioè, ma se uno vende su post, mi scusi, che tipo di esperienza, per dire ogni prodotto avrà la sua possibilità? Il flash mob sì, è uno strumento oggi che riscoperto e tutto, ma in realtà porta il prodotto in dei luoghi e lo fa provare alle persone, come una volta erano gli assaggini dei prosciutti, dei salamini, dei prodotti di stagione, cose del genere. No, questo si chiama sampling, che è richiesto. Io faccio fare esperienza per esempio di un prodotto che ha determinati tipi di valori, per esempio la bontà, il gusto di alimentazione, un a caso, la naturale provenienza dei prodotti, per cui io gli faccio fare esperienza in merito ai valori, cioè al gusto, mettendo in scena proprio attraverso l'arte, la cultura e lo spettacolo quelli che sono questi valori. Beh, anche la saga della porchetta, c'è un porchettone, vanno lì e danno gli assaggini, non è una cosa estremamente nuova. Non so se c'è un brand che ha dei valori del porchettone, se c'è un brand che ha dei valori che si collegano all'unto, al grasso e al gorgeous, allora noi possiamo inventare una porchetta lunga 15 metri dove il più grande chef la prepara perché è notiziabile e tutta la gente viene e mangia una perfetto, porchetta. Perfetto, chiarissimo. Ho capito esattamente. Lei trasforma qualunque marchio, qualunque brand in un evento, trasforma l'oggetto in un medium e in quanto medium viene trasferito e se ne è impregnati dell'esperienza concreta e reale della degustazione o dell'assorbimento dell'oggetto. È una grande esperienza. Devo lasciare la linea all'informazione della borsa, ma continuate a chiamare perché vedo meravigliosi talenti che avranno luminosi futuri. Melog 2.0. Io di patate Ne ho viste tante, gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi, grandi e piccole, con la sorpresa. Le prendevo così, senza tanti complimenti, anche tre alla volta. Ma nessuna è come questa. Fidati di uno che le ha provate tutte. Profumo di mughetto, delicato, retrogusto di coriandolo, una goccia di lime e bagnoschiuma. Analisi dell'eccellenza, in cosa siamo esperti, il mondo è affamato di esperti. L'esperto, abbiamo capito oggi, è la chiave di volta di tutto il pensiero contemporaneo. Alla ricerca di esperti questa mattina, chiamando all'800240024, potrete essere notati forse da chi ci sta ascoltando con attenzione, perché in realtà la televisione, il mondo dei media, la vera certificazione di ogni realtà e di ogni esistenza, è affamato di esperti. Gli esperti ormai sono logorati, sono ammuffiti, sono strausati, cercano nuovi esperti e nuove branche dell'esperienza. Ugo, buongiorno. Buongiorno. In cosa è esperto? In biglietti di auguri, so sempre cosa scrivere quando c'è da scrivere in fretta qualche augurio per questi tipi di, diciamo, di evento e anche di persone, insomma, a cui è rivolto. Va bene, mettiamo alla prova la sua esperienza. Sì, vorrei conoscere la persona comunque. Signor Ugo, lei, in quanto esperto di biglietti di auguri, cosa scriverebbe a una signora che si vuole allontanare dalla sua sfera emotiva, affettiva? Cioè, per mandare a quel paese una persona, cosa scriverebbe in un biglietto d'auguri? Facendole però gli auguri. Ti auguro di... La riteniamo una persona non più... Non più... destinata ad occuparsi delle nostre stanche membra. Non più coinvolgibile con le nostre attività. Avvolgibile sarebbe meglio. Avvolgibile? Sì, direi. Forse un po' troppo. Dovrebbe ancora dovrebbe un po' studiare. Fulvio, in cosa è esperto Fulvio? Fulvio? Ma non sento assolutamente nulla, ragazzi. Non si sente il ritorno. Lo sa perché non comunque si sente? Vabbè. Perché lei è esperto in comunicazione. Tutti gli esperti in comunicazione non sentono il ritorno. Lo so, e purtroppo allora, questa... Io sono esperto in fuffa, ovviamente, perché sono l'esperto della fuffa, come te. E il problema fondamentale per un esperto di comunicazione è conoscerla, la fuffa, conoscerla nei dettagli, in maniera tale, se sei serio, da evitarla e da farla evitare. Il problema è che la fuffa, come sai, ci contorna nelle aziende, nelle imprese, nella comunicazione, nella pubblicità, nei media. Mettiamola subito alla prova, perché mi sembra giusto dare elementi il più possibile esatti ai cacciatori di esperti che ci stanno ascoltando, quindi ricreiamo l'habitat di un luogo di eccellenza in cui passano molti esperti. Signor Fulvio, lei, in quanto esperto di fuffa, come pensa che si possa reagire per noi esperti in fuffa di fronte all'inflazione di esperti di fuffa che riempie la fuffa del mondo di tanta fuffa inutile? Beh, è abbastanza semplice secondo me, in realtà. Basta guardare negli occhi le persone, capire se ti dicono la verità o se stanno vendendosi, capire se sanno di non sapere. Mi scusi se la interrompo, signor Fulvio. In quanto esperto di fuffa, cosa consiglierebbe a persone come me che vendono fuffa alla radio e non possono guardare negli occhi le persone? Di continuare a dire le cose che si pensano e sperare che le persone che ti ascoltino ascoltino con il cuore oltre che con la testa e soprattutto non con il portafoglio. Grazie Fulvio, anche se questa ultima fattispecie è quella che mantiene in vita i nostri bambini. Pierluigi, buongiorno, lei in cosa è esperto? Buongiorno, io sono esperto in tutela e gestione del patrimonio e del risparmio delle famiglie italiane. Ah, benissimo, mettiamola subito alla prova. Signor Pierluigi, in quanto esperto di tutela del risparmio delle famiglie italiane, perché un padre di famiglia dovrebbe affidarle i suoi sudati risparmi? Allora, nel mondo esistono tante opportunità e tanti rischi. Il vero esperto non si preoccupa del breve, non fa promesse nel breve periodo, ma cerca. Ma il padre di famiglia si preoccupa dei suoi sudati risparmi? Certo, deve capire che è davanti a un professionista che non guarda alle cose di breve, ma cerca insieme a lui di costruire qualcosa. futuro. In realtà una Monica Setta scalpita in me, lo sto sentendo. Prego, prego. No. Senza fare false promesse. E questo purtroppo non viene capito dalle persone. Cercano tutti un tasso di interesse che è effimero. Il mondo è superficiale, crudele, non sa quanto gli esperti di tutela del risparmio invece siano profondamente preoccupati del loro benessere. Grazie per Luigi. Passiamo a Damiana. Damiana, buongiorno. Buongiorno. In cosa è esperta, Damiana? Allora, io sono esperta in un nuovo tipo di concerti in cui coinvolgo, io suono il pianoforte, sono pianista e compositrice, e in cui suono il pianoforte su temi che mi dà il pubblico. Cioè faccio la musica proprio per le persone che mi chiedono una... Ha un piano sotto mano in questo momento? Sì. Ah, già potrebbe farlo se la chiamassi. Ah, certo. Allora si prepari, perché la introduciamo subito, così vediamo subito il suo livello di esperienza. Ed ecco in questo momento una piccola pausa di intrattenimento dopo aver sentito tante e profonde considerazioni sull'essenza politica del nostro paese, la signora Damiana. Signora Damiana, in quanto esperta di improvvisazione al piano, cosa suonerebbe in questo momento per dare una degna cornice a questa folle trasmissione? Allora, una musica sulla fuffa, insomma. Ci faccia ascoltare la sua fuffa, signora Damiana. La fuffa, ok. Pause da riempire, perché c'è l'Ittorgan Bontempi o il pianoforte? Signora Damiana, tutte le mattine lei si prende il suo bel mezzo litro di Tavernello, ci fa molto piacere, la salutiamo con grande piacere. Come diventare un esperto in 6 settimane. Per prima cosa devi leggere i 3 libri più venduti o più citati nel settore a cui ti vuoi rivolgere. Poi devi riassumere questi libri in una pagina. Organizza un seminario gratuito da 1 a 3 ore all'università più vicina. Utilizza dei volantini, dei manifesti e appoggiati alle associazioni studentesche per promuovere l'evento e invitare gli studenti a partecipare. Contatta la Camera di Commercio, l'Associazione Piccole e Medie Imprese, l'Associazione Industriale oppure gli Uffici per lo Sviluppo Economico della provincia e della regione dove risiedi e porta a riferimento come elemento di credibilità il fatto che hai tenuto un seminario all'università. Registra entrambi questi eventi sia all'università che nelle Camere di Commercio, ad esempio, con 2 telecamere da 2 angolazioni diverse per darti l'opportunità eventualmente in futuro di realizzare un prodotto come un DVD o un infoprodotto su questi argomenti. Crea un canale su YouTube e una pagina su Facebook. Questo è divertentissimo. C'è un signore che su YouTube fa delle lezioni come diventare esperto in 6 settimane. Quindi è la conferma radicale di quello che stiamo dicendo noi. Oggi in realtà non serve talento. L'esperto non deve avere esperienza. Si può essere esperti in tutti e tutti avranno un loro posto, avranno una loro ragione. È importante avere un'etichetta sulla testa che sia esperto in qualcosa, come l'ultima signora, esperta in improvvisazione musicale. Magari non è per niente vero, ma è già un personaggio, già esiste, già le immagino nel salottino di Marzullo, nel salotto di Vespa o in qualsiasi altro programma. Ecco la nostra esperta in improvvisazione, cosa ci improvvisa? E lei lì si mette a suonare ubriaca sulla tastiera e tutti sono convinti di aver trovato un grande talento. Questo signore fa il triplo salto mortale, lo spiega su YouTube, cioè lo mette a disposizione di tutti. Se tutti mettessero a segno i suoi insegnamenti, tutti in 6 settimane diventerebbero esperti. Avremmo una popolazione di tutti esperti. Ci incontriamo, buongiorno, ci si dà la mano, già si è esperti nel dar la mano tutti e due e quindi ci sarà la mano in maniera meravigliosa, esperti nel saluto, esperti nella relazione, esperti nel sorriso, esperti nella palpata, esperti nella dichiarazione di oltraggio per aver avuto in debita attenzione fisica e via dicendo. Sarebbe un fantastico mondo in cui tutti sarebbero esperti e nessuno dovrebbe chiedere consigli a nessuno. Contatta gli editori delle riviste di settore più importanti e offriti come articolista per un paio di pezzi. Se rifiutano, suggerisci se puoi intervistare un esperto del mercato e riportare le informazioni all'interno di un articolo. In entrambi i casi otterrai la qualifica di collaboratore della rivista e potrai utilizzarla come elemento di credibilità, collabora con la rivista tal dettaglio. Seleziona una serie di blog e offriti di scrivere dei guest post. È molto importante selezionare solo blog che siano credibili e da cui tu puoi ottenere credibilità come ritorno e che abbiano un'ottima diffusione, soprattutto nel mercato a cui vuoi andare a vendere i tuoi prodotti e servizi. Analizza gli articoli delle riviste di settore, di blog e di portali che sono seguiti dai tuoi potenziali clienti. Se trovi un articolo interessante, contatta l'autore, e fagli i tuoi complimenti e eventualmente gli fornisci dei link verso risorse aggiuntive o ad esempio argomenti che potrebbero essere utilizzati. Praticamente spiega come nel regno della fuffa, nel regno dell'approssimazione, nel regno del pressapochismo, nel regno del bluff, sia possibile scegliere le strade più attendibili e più certificate in cui si può mettere assieme fuffa su fuffa, bluff su bluff, improvvisazione su improvvisazione, e a forza di farlo si diventerà, perlomeno come è diventato lui, un esperto nella possibilità di diventare esperti senza sapere fare nulla di preciso e particolare. Carlo, buongiorno, in cosa è esperto? Buongiorno, io credo di essere discretamente esperto in botanica, perché pur avendo fatto studi diversi, liceo classico e poi matematica all'università, ho piantato con le mie mani, con i miei piedi, 1500 piante, anzi 2000, di cui 1500 viventi, 700 specie diverse. Ecco, ma si spiega come mai, scusi, che il più grande esperto di botanica nel nostro paese viene considerato Luca Sardella e non lei? Mi è nata questa passione nel tempo. Nessuno l'ha mai chiamata come esperto in botanica? Giornali, nessuno, televisione? No, nessuno. Mi sono limitato una volta ad andare ad Orticola con una pianta particolare, ho vinto il primo premio. Quindi lei veramente ne sa di queste cose? Abbastanza. Io ho scritto qualche testo, in particolare un dizionario etimologico botanico, e usufruendo delle mie conoscenze latine e greche ho messo proprio l'etimologia in. Però si rende conto che l'amara, cruda ma realistica verità è che un vero esperto come lei non serve a nessuno, perché servono esperti di facciata, esperti che siano esperti nel dimostrarsi di essere esperti. Lei è profondamente, radicalmente, genuinamente esperto in qualcosa, e la grande fabbrica degli esperti non sa che farsi di persone come lei. Questa è la realtà. Melog 2.0. Io proporrei suoni di animali, so fare il maiale, se per quello, ecco, per esempio. Ah! Era una tigre del Bengala, ho preso il distintivo di esperto in versi di animali. È fantastico, Russell. Sono molto bravo. Indovini che cos'era quello? Un grido di dolore. No, un puma. Conosco ogni genere diversi. Io! Quaglia, quaglietta! Quello che cos'era? Sai che non era affatto male? Non sono stato io. Ce l'hai il distintivo di fuga terrorizzata? No. È ora di guadagnartelo! L'imitazione diversa degli animali ha sempre appassionato tutte le velleità di esperto. La nostra ascoltatrice, bravissima nel fare il maiale, grugnisce da favola. Immagino i suoi momenti di intimità, quanto saranno pregni di questa sua fantastica eccellenza. Stiamo cercando, anche se ahimè è miserrima la conclusione, ma noi affascina, essendo assolutamente innamorati delle incongruenze della contemporaneità, delle disallineamenti rispetto alla logica del tempo in cui stiamo vivendo, che oggi per essere esperti bisogna in realtà non sapere far nulla, bisogna essere l'antitesi di ogni esperienza, l'antitesi di ogni approfondimento. Allora la grande macchina, la grande rete di ricerca di eccellenze ci prenderà e ci gratificherà. Marco, buongiorno. Buongiorno. In cosa è esperto? Sì, io sono esperto in trovare soluzioni mediate, che mediano fra le due parti, e come tale, siccome... È un mediatore? Sono un solutore più che un mediatore, e siccome propongo soluzioni, ovviamente sono, come diceva lei, un esperto inutile, perché due parti che litigano non hanno l'obiettivo di trovare una soluzione. Quindi lei è un Mr. Wolf di Tarantino? Anche, volendo, si può anche descrivere in questo modo, nel senso che io propongo soluzioni che cercano di accontentare i vari interlocutori, la moglie e i figli, la suocera e la nuora, il datore di lavoro e i lavoratori. Un fluidificatore di rapporti. Esattamente, e come tale alla fine però predico nel deserto, perché? Perché nessuno la chiama, non fanno a lira. No, questo lo faccio come dote naturale, non tanto come professione a tempo pieno. Quindi non alza uno stipendino facendo il fluidificatore, fluidifica gratuitamente. Sì, è più una missione, quasi una vocazione, che non tanto un lavoro vero e proprio. Proviamo, che devo dire? Proviamo. Signor Marco, lei in quanto esperto di lubrificazione gratuita di rapporti personali, cosa consiglierebbe a tanti personaggi dello spettacolo che paiono così restii ad avere un rapporto duraturo dal punto di vista affettivo? Ma consiglierei di valutare attentamente l'altra persona, perché a volte il rapporto finisce perché ci si ripiega su se stessi. Quindi un aprirsi un po' di più all'altro. Delle volte ci si ripiega anche su altri che si aprono volentieri, quindi è un po' difficile definire. Comunque prendiamo per buona la sua definizione e passiamo al signor Guido. Guido, buongiorno, in cosa è esperto? Buongiorno, io da parecchi anni, dagli anni 70, mi occupo di sicurezza delle comunicazioni e anche delle conversazioni, se vogliamo, cioè metto in condizione i miei clienti, che quasi sempre sono delle aziende, ma anche dei professionisti, dei privati, di poter parlare serenamente al telefono senza poter essere intercettati con i loro interlocutori abituali. Perfetto, mi sembra perfetto, si fermi lì, si fermi lì. Ed ecco il signor Guido, esperto in sicurezza telefonica. Signor Guido, perché oggi ci si preoccupa tanto delle intercettazioni se esistono personaggi come lei? Ma vede, c'è pochissima sensibilità in questo settore, nonostante lei sa che lo spionaggio sia quello industriale. Ne sa una più del diavolo, dicono. Beh sì, dicono che è il secondo mestiere più vecchio del mondo, no? Per cui sia a livello istituzionale sia a livello spionaggio industriale vengono impiegate delle tecnologie che per assurdo sono più semplici da applicare che quelle di difesa. Cioè, perfetto, lei ci ha perfettamente soddisfatto nella sua risposta e passiamo al signor Michele. Michele, buongiorno, in cosa è esperto lei? Buongiorno, mi sono millantato esperto in auto d'epoca. Ma non è vero? Ma sì, no, non è vero, perché ho telefonato più che altro che ho sentito la sua trasmissione e l'ho trovata geniale, perché in quanto esperto, compra, venditore di auto d'epoca, mi capita di andare a mercatini, roba del genere, così, sono tutti bravi, tutti interessati, tutti esperti, però non si riesce a trovare in giro solo battilastra. Cioè, per nessuno vuole rifare. Il battilastra cosa sarebbe? Un carrozziere? Sì, è un carrozziere, diciamo, artigianale, uno che sistema carrozzerie speciali. All'epoca si facevano tanto. Quindi manca il vero esperto restauratore di auto d'epoca. Va bene, lei ci ha dato uno specchio di vita, prendiamo come buona la sua testimonianza. I veri esperti che mancano sono dei sani carrozzieri. Mario, vediamo di concludere con Mario. Mario. Buongiorno. In cosa è esperta? Io sono, vendo appartamenti nell'aldilà. Sì. E sto facendo una attività, si chiama la Eternity Investments. Ah, meraviglioso. E diciamo che propongo degli appartamenti nell'aldilà. Facciamo subito una prova, perché questo mi sembra veramente, alla fine abbiamo un esperto in una branca che ancora non è stata toccata dalla televisione. Ed ecco il signor Mario, esperto immobiliarista in appartamenti nell'aldilà. Signor Mario, potrei visitare uno dei suoi appartamenti? Avrei bisogno di un bilocale più servizi, probabilmente con una bella vista. È possibile vederne qualcuno? Senza schiattare, naturalmente. Abbiamo delle piantine, ovviamente. È sulla fiducia, quindi? È chiaro, le comunicazioni non sono semplici. Noi diciamo che la vendita avviene... senza, non ci sono tasse, non ci sono questioni notarili, diciamo proponiamo un appartamento e diciamo che l'appartamento si può anche prendere vicino se lei ha un amico per ma una nuda proprietà è possibile acquistarla, signor Marco? No, sono perché sono già tutti morti là, quindi esatto, sono già tutti case prefabbricate. L'unica cosa, siccome l'internet è gratuita, l'unica cosa che noi chiediamo è che una volta che la persona si è alloccata deve comunicare come si sente, deve fare, diciamo. Ma lei, signor Marco, in conclusione, i nostri soldini li prende per questo servizio oppure è gratuito? No, no, non è gratuito, ovviamente. Ah, ecco, mi sembra perfetto. Benissimo. Abbiamo trovato veramente, in conclusione, il vero esperto che vende la fuffa della fuffa, appartamenti nell'oltretomba, e si fa pagare per questo. Penso che chi ascolta di produzione televisiva e di caccia ospiti in televisione non potrà che essere contento. Ecco, abbiamo trovato il vero esperto che mancava oggi alla televisione. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, grazie al signor venditore di case nell'aldilà che farà da oggi la sua fortuna. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.